l'Osservatorio America Latina del Centro Sociale XM24 di Bologna e il Nodo Solidale di Roma presentano Storie di straordinario Messico. Un viaggio che ci porterà a conoscere le voci del popolo messicano in resistenza. Un popolo in lotta per ottenere la propria dignità. Un popolo che non dimentica la rivoluzione messicana, che solo un secolo fa liberò il paese, restituendo le terre ai contadini. In questa puntata vi racconteremo come vive una comunità indigena zapoteca sulla Serra Madre dello Stato di Oaxaca. Avremo degli interventi che presenteranno le iniziative di un'organizzazione di base indigena, fatta di progetti sostenibili e di attività orizzontali, ma anche di dura repressione da parte del governo. Dedichiamo questa trasmissione a tutti quei popoli che nessuno conosce e la cui lingua nessuno capisce, a quei popoli che la società contemporanea dell'omologazione vorrebbe fossero dimenticati, a quei popoli che si sono già estinti, decimati dal progresso che cancella la storia. Noi pensiamo che la tradizione non sia retaggio del passato, ma memoria che vive ed insegna. In quest'epoca di intolleranza ed ignoranza, la differenza è l'unica arma contro l'appiattimento delle culture. Dopo Oaxaca, viaggiamo tutta la notte con un bus che, attraverso le montagne, ci porta a Pochutla. Da lì ripartiamo con una redilla, un furgoncino, alle 4 di mattina e ci nutriamo nell'entroterra. Dopo 4 ore di viaggio, arriviamo nella comunità indigena di Santiago Xanica. Cos'è Xanica? Santiago Xanica è un villaggio arrampicato sui monti verdi della Sierra Sur di Oaxaca, abitato da 1000 indigeni zapotechi che da centinaia di anni vivono in questi boschi. È una tribù, una comunità, con la propria lingua, con i propri costumi, con le proprie forme di vita che hanno resistito alla meglio a 500 anni di conquista. A Xanica la gente conserva con orgoglio la propria identità indigena, nonostante la povertà endemica, la repressione e l'emarginazione a cui sono stati costretti dagli spagnoli prima e dallo Stato messicano poi. Tra le usanze irrinunciabili c'è l'assemblea del villaggio, organo decisionale al di sopra di ogni istituzione imposta dalla modernità e vero esempio di democrazia diretta, popolare o in altri termini di autogoverno indigeno. Perché raccontare la storia di questa comunità sperduta? Perché la vicenda di Santiago Xanica è emblematica, specchio di tante altre realtà simili che popolano il Messico profondo, quello distante anni luce dagli alberghi lussuosi di Cancun, Puerto Escondido o Acapulco. In questa comunità, governata a turno da un saggio eletto dal villaggio, secondo un costume che vige in più di 400 dei 500 municipi dello stato di Oaxaca, il governo statale ha imposto con l'esercito un proprio sindaco, col fine di usurpare alla comunità l'acqua, le terre ed i boschi, mettendoli al servizio del turismo internazionale della costa del Pacifico. Xanica è un esempio, come tanti altri, di resistenza, di repressione, di divisioni fomentate dai partiti, che sono una logica aliena al concetto armonico ed unitario della vita comunitaria rurale. È un esempio di lotta dal basso, attraverso il Comitato di Difesa dei Diritti Indigeni, CODEDI, un'organizzazione orizzontale senza dirigenti, radicale, che ha animato, fra l'altro, la APO fin dai suoi albori. La comunità di Santiago Xanica combatte per mantenere la sua autonomia, per recuperarla di fronte ai colpi della modernità neoliberista, della migrazione forzata dalla povertà, del crollo del prezzo del caffè, della repressione e della detenzione politica, dell'esercito, del governatore assassino e tiranno dello Stato di Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz. Abbiamo avuto il piacere di arrampicarci sui sentieri del villaggio ed ascoltare la voce profonda dei guardiani della terra, lo spirito guerriero zapoteco che ancora vigila e resiste fra le nubi e le vette della Sierra Sud di Oaxaca, Messico. E ora ascoltiamo Resistenza Oaxaqueña. Por la calle voy hilando el collar de mi pasión, por la calle voy contando las monedas de mi amor, por la calle voy buscando la humedad de la razón, por la calle voy tirando la envoltura del dolor, por la calle voy volando como vuelo. Calle es la única historia de mi vida. Calles oscuras, calles sin salida. Calles hundidas en la corrupción. Calles, tensa situación. Calles, jungla de asfalto y cemento. A ti no puedes dormirte ni un momento. Donde el invento es el sustento diario. Y no confiar ni en tu sombra se hace necesario. Calle, seminario en el cual me he formado, sí. Única escuela en la que reglas no he violado. Ajá. Mi rap se ha alimentado de su verdad cotidiana. Las he visto sangrar son las venas urbanas. Calles, la fiana, asaltos, droga. Un paso en falso y en el cuello la soga. El mareado se ahoga, el astuto a flote sale. Con la pistola en la cabeza un título de nada vale. Usuales acciones, motivos de canciones. Asesinos, maricones, prostitutas, chivatones. Calles de enigmas, verdaderas prisiones. Sí. Las mismas civilizaciones tras civilizaciones. Mira, la suerte engaña siempre que la calle toca. Mitad provoca salir temprano pa' llenar los requisitos de esta época. Los siete hijitos tienen hambre, hay que llenar sus bocas. Caerán las páginas, verás llover sus lágrimas cuando la realidad trastoca. Sentir callado, aunado a sentimientos encontrados. Ver sus padres explotados y su futuro siendo el mismo que han asignado. El muchachito entonces deja aspiraciones que se han helado. Nuevo conscripto se ha creado, un ser sin postura de escoger y ver. Así es como la delincuencia se ha multiplicado. Hasta stopping basta, guard tu gangsta plasta. Aquí, sobre la realidad que yo nací. Reproducción de los junkies, instalación de los solventes, intervención de los yankees. ¿Cuál papel de los MCs? Enfrentamiento a los nazis. Reproducción de explotación o libertad, cualquier país. Calles cubanas, mexicanas, habaneras. De torres de potrero unidas con las de barrera. Mi verdadera escuela, sí. Mi mejor profesora, señora. De gran experiencia, poseedora, aportadora de realidades y secretos, de una gran amistad con las favelas y los guetos, quien implanta respeto y nos hace entender que todavía de ellas hay mucho que aprender. Calles, el taller de nuevos conocimientos, de accidentes, discusiones y actos violentos, el área de entrenamiento de estos guerrilleros cuyas armas más potentes son el papel y el lapicero. Calles donde no es mejor quien llegue primero, sino quien llegue con paso firme y corazón de acero. Calles, escenario preferido de los raperos, de los cubanos, los mexicanos, en fin, los callejeros. Calles, la única historia de mi vida. Calles oscuras, calles sin salida. Calles hundidas en la corrupción. Calles, tensa situación. Calles, la única historia de mi vida. Calles oscuras, calles sin salida. Calles hundidas en la corrupción. Calles, tensa situación. Calles, la única historia de mi vida. Calles oscuras, calles sin salida. Calles hundidas en la corrupción. Calles, tensa situación. Calles, la única historia de mi vida. Calles oscuras, calles sin salida. Calles hundidas en la corrupción. Calles, tensa situación. Suelto el collar de mi cuerpo. Abbiamo intervistato César Luis Díaz, membro del CODEDI, che ci ha raccontato la storia dell'organizzazione e il lavoro che fa sul territorio di Santiago Xanica, nel distretto di Mihuatlán, stato di Oaxaca. Io formo parte di una organizzazione denominata Comité por la Defensa por los Derechos Indígenas, CODEDI, entre siglas. Faccio parte di un'organizzazione denominata CODEDI, Comitato per la Difesa per i Diritti Indigeni. Questa organizzazione venne fondata nel 1998, quando il governatore José Mular César impose un'autorità nel nostro municipio, che fino ad allora si reggeva per usi e costumi. Ciò significa che quando eleggiamo un presidente, viene fatto attraverso un'assemblea popolare. Quindi il governo manda da Oaxaca questo nostro compaesano, Juan Cruz López, perché faccia da sindaco. Nel 2001 riusciamo ad ottenere una accordo per ristabilire nuovamente l'autonomia della comunità, perché in quel momento cominciavamo a vedere che la comunità si stava dividendo, mentre prima il tessuto sociale era molto più unito, c'era il rispetto per l'autorità, c'era armonia e c'era un maggiore senso della comunità. Nel 2002 si nomina un nuovo presidente con il sistema degli usi e costumi. Però nel 2003 il governo, attraverso il suo partito istituzionale PRI, nuovamente mette le mani e impone un altro presidente. Quindi qui l'organizzazione gioca un ruolo molto importante nel difendere i diritti del popolo e il diritto indigeno, tanto collettivo quanto individuale. Il CODEDI è un'organizzazione differente da un partito, è un'organizzazione che non crede nei partiti politici e non dipende da loro, non ne fa parte, perché noi crediamo che solamente con l'auto-organizzazione dei popoli e la difesa della loro autonomia si potrà andare avanti. In questa organizzazione la cosa più importante è che per noi non ci sono dirigenti. C'è sì un gruppo direttivo, ma quando si prende una decisione c'è il consenso di tutti. Nell'ottica quindi dei processi di autonomia e auto-organizzazione, il CODEDI si è fatto promotore di alcuni progetti. Uno di questi è stato la costruzione di case dignitose. Abbiamo proposto allo Stato di fornirci il materiale industriale, come mattoni, lastre di pietra, tondini di ferro, cemento e altro materiale. A questo noi abbiamo aggiunto materiale della nostra regione e la manodopera, dimostrando al governo che possiamo farcela costruirci le case da soli. Come lo abbiamo fatto? Attraverso il techo, ovvero lo scambio di mano, come lo chiamiamo noi. Uomini, donne e bambini sono tutti coinvolti in questo lavoro collettivo. Perché lo facciamo? Perché per noi è molto importante tornare a riscaldare la forma in cui i nostri avi lavoravano. Con l'organizzazione gestiamo anche progetti a livello sociale. Abbiamo fatto una battaglia contro il governo dello Stato per la gestione dell'acqua potabile. Un altro progetto sociale è la creazione di una scuola superiore per la comunità, il BIC, il Bachillerato Integral Comunitario. Abbiamo promosso la costruzione di aule, una biblioteca e del laboratorio di informatica. Pensiamo che attraverso i progetti sostenibili si può far fronte al capitalismo, al sistema neoliberale. Perché questo sistema, ad una comunità come la nostra, Santiago Xanica, una comunità indigena zapoteca, non ha nulla da offrire. Dobbiamo essere coscienti di questo e trovare alternative. Per questo organizziamo progetti sostenibili. Abbiamo un progetto di apicoltura, produciamo miele e pensiamo di insegnare alla comunità e alla gente come produrre e sostenerci da soli. Abbiamo anche lavorato nella riforestazione, piantando alberi e altre piante legate alla campagna. Xanica è una zona ricca di biodiversità e siamo gli unici a difendere la natura. Sappiamo che queste zone sono ricche di uranio, ma soprattutto di acqua. Il vicino complesso turistico di Bahia Huatulco sta minacciando di prendersi le acque della sorgente del rio San Geronimo, che passa vicino alla comunità. I lavori sono già cominciati. Hanno scavato un pozzo e l'acqua che viene estratta è incanalata verso gli alberghi che stanno a valle. La difesa della natura è una parte fondamentale della nostra lotta e ci opporremo all'intento di rubarci le nostre risorse naturali. Un altro progetto a cui abbiamo lavorato è quello della radio comunitaria. Pensiamo che dobbiamo avere mezzi di comunicazione liberi, senza che nessuno ci condizioni, e dove noi stessi, la comunità stessa, può decidere, può informare come vuole. La nostra attività abbraccia molte tematiche che per noi sono importanti, come il diritto alla libertà d'espressione, che purtroppo non c'è, non esiste. E il governo che fa? Ci manda costantemente l'esercito, di modo che questa radio non possa lavorare in maniera normale. Già in varie parti del paese sono riusciti a chiudere queste radio. Un'altra parte della nostra lotta è legata al lavoro della terra. Non vogliamo più essere dipendenti dalla monocoltivazione, perché sappiamo che adesso la maggior parte delle comunità dipende solo dal caffè. Per esempio il governo ci manda piccoli programmi paternalisti e assistenzialisti, come quello di sostegno alla coltivazione della terra, che però realmente non ci aiuta in nulla. Vogliamo quindi contrastare tutto questo. Come? Promuovendo differenti progetti. A Scianica prima i nostri avi piantavano la canna da zucchero, la banana, il peperoncino, i fagioli, il mais. Loro stessi producevano tutti questi prodotti. Crediamo che oggi sia possibile nuovamente far rivivere queste coltivazioni e questa è un'opzione per affrontare il capitalismo e non consumare più, per esempio, il mais transgenico e tutti i prodotti che vengono da fuori, che per la maggior parte sono più chimici che naturali. Noi invece pensiamo di produrre tutto questo in maniera organica, elevando la qualità dei prodotti. È una forma di affrontare questa realtà, perché sappiamo che il capitalismo è un mostro e che è difficile combatterlo, e non sono mancate occasioni per farcelo capire. Tutto questo è stato il lavoro dell'organizzazione, difendere i nostri diritti, la nostra natura, la nostra autonomia, le nostre tradizioni, la nostra cultura, perché poco a poco ci stanno rubando tutto. Per noi continuare a resistere è una strada obbligata, non c'è nessun'altra opzione che lottare e dimostrare al governo che non ci vendiamo per delle briciole, né che staremo zitti facendoci incarcerare. Le compagne e i compagni hanno capito che dobbiamo affrontare il governo e che dobbiamo lottare pacificamente. La nostra, infatti, è stata sempre una lotta pacifica. Dobbiamo continuare a lottare finché non verranno rispettati i nostri diritti politici, come individui e come comunità. Pues seguir luchando hasta que se nos respete nuestros derechos políticos como tal, entonces como individuo y comunidad. Ora ascoltiamo Orishas 537 Cuba. Lo que impuso y que se pega y cuando llega no despega, pega, pega lo que puso el ruso en el discurso que con 20 segundos puso entre tus cejas. Ahora la distancia queda. Si de mi lengua estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza, ¿de qué forma quieres tú que yo detenga la sangre de amor y patria que me corre por las venas? Generaciones vieja y nueva, de corazón, sangre y pulmón. Allá lejos, donde el sol calienta. ¿Entiendes? Me habla el corazón que no me miente, hermano. Flotando ando, pasando la mano, mano sobre el mapa de este mundo. Y desde lo profundo de mi corazón siento nostalgia. Una extraña sensación como añoranza de esta distancia que se interpone. Que regresaré bien se supone. Y eso me pone el hombre más feliz por un segundo. Ya lo cantó con Pai Segundo. Y yo de nuevo escucho el quejo de mi gente chico. Bien te lo explico, cubano 100% prototipo. Me arrancaré el corazón y esperaré mi regreso para sacarlo otra vez y colocarlo en mi pecho. Tengo de donde hay un río, tabaco y caña, real, donde el sudor del guajiro hacia la tierra soñar. Tengo de donde hay un río, tabaco y caña, real, donde el salió por de buena vista Miramar a la mar, la victoria Habana Vieja, barrio nuevo Bejucal. ¿Dónde estás tú mi rampa? El sol que canta, la catedral, el Capitolio se levanta en el oído de estas voces. 23 y 12, vedado, paseo del Prado, tus leones lado a lado forman parte de mis tradiciones, mis emociones. Eres tú mi Cuba, como tú ninguna. Cabio si le soy Yoruba, que no quede duda que si lloro es porque le extraño no ver mi malecón a mis amigos de mi zona, los que nacieron conmigo, los que jugaron conmigo. Recordarlos sin tenerlos me hace daño. Año tras año sueño con volver a ver esos amigos que añoraba. Tu olor de la campiña cuando llueve y morro el caso de las nueve, el que te quiere nunca muere, no, jamás, jamás. Tengo de donde hay un río, tabaco y caña veral, donde el sudor del guajiro hacia la tierra soñar. Tengo de donde hay un río, tabaco y caña veral, donde el sudor del guajiro hacia la tierra soñar. Custodi dei segreti della cultura zapoteca, le donne della comunità di Santiago Xanica si sono unite in un collettivo. La voglia di emanciparsi dal ruolo in cui spesso sono relegate le ha spinte ad unirsi e discutere dei loro diritti. Il lavoro di questo collettivo è un ottimo esempio di auto-organizzazione, con i tempi e gli obiettivi propri delle indigene. Abbiamo intervistato Carolina Cruz, membro del CODEDI e del collettivo delle donne del CODEDI. Ci ha spiegato perché nasce il gruppo e che lavoro ha sviluppato in questi anni. Nosotros como mujeres, ¿no? Tenemos voz y voto dentro de la organización, como dentro de la comunidad, ¿no? Porque pues aquí en la comunidad, como es una comunidad indígena, pues poco se valora el trabajo de la mujer. Come donne abbiamo voce e diritto di voto dentro l'organizzazione. Dentro la comunità questo non avviene, in quanto, essendo una comunità indigena, non si dà valore al lavoro delle donne. Quindi abbiamo cominciato ad analizzare la figura della donna all'interno della comunità, i suoi diritti, le sue decisioni e soprattutto la partecipazione delle donne nella vita comunitaria a partire dalla nostra comunità. Abbiamo cominciato a discutere e valorizzare questi discorsi e così nasce il collettivo di donne. Io, a dire il vero, ero l'unica donna all'interno del CODEDI e cercavo di coinvolgere altre donne. Quando abbiamo formato il primo collettivo, uno dei primi progetti è stato quello della coltivazione degli ortaggi. Coltivavamo cilantro, bietola, ravanelli. Vedendo che il lavoro dava i suoi frutti, il collettivo si rafforzava. Ci riunivamo due o tre volte la settimana e in questi momenti potevamo scambiarci idee, opinioni, esperienze e cercavamo di coinvolgere le altre donne della comunità. Discutevamo inoltre della necessità di crearci un lavoro specifico come donne, perché nella comunità le donne non lavorano e quindi non hanno uno stipendio. Molti di noi hanno una famiglia. E spesso lo stipendio del marito non basta a coprire le spese di mantenimento. L'idea era quindi quella di fare qualcosa per dare un contributo all'economia domestica. Alcune compagne hanno quindi cominciato ad insegnare alle altre a ricamare e a tessere. Facciamo un laboratorio pomeridiano di 2 ore e mezza, nel quale, oltre a lavorare, parliamo dei diritti delle donne, dell'educazione dei figli, della partecipazione alla vita comunitaria. Inoltre questo laboratorio ci dà il tempo di poter analizzare quello che succede a livello statale e nel nostro comune. Sempre all'interno di questo spazio si è costruita la proposta di avviare un progetto di medicina naturale. Alcune compagne hanno quindi frequentato dei corsi specifici per imparare a fare varie medicine, saponi, sciroppi, gocce e pomate. All'interno di queste attività, un obiettivo forte era quello di valorizzare la nostra lingua materna, il rispetto della nostra cultura e delle tradizioni della nostra comunità che si stanno via via perdendo. Fino al 2005 il lavoro del collettivo delle donne era molto buono e molti di noi lavoravano, ma poi è arrivata la repressione che ha smantellato tutto. Molte di noi si sono scoraggiate e sono uscite dal collettivo perché non riuscivano a resistere ad una lotta così dura. Spesso, infatti, dovevamo fare delle manifestazioni dei sit-in che duravano mesi e quindi bisognava separarsi dalle famiglie e dai figli. Molte quindi non ce l'hanno fatta ad andare avanti. In questo momento, come donne, abbiamo deciso di costituirci in un'associazione civile perché crediamo che in questo modo possiamo fare più progetti per il futuro, per continuare a lavorare insieme come collettivo, come organizzazione, come donne. Pensiamo così di poter dare uno stipendio minimo alle nostre compagne per poter sostenere le loro famiglie e pensando anche alle donne sole per le quali la vita e il mantenimento dei figli è sempre più difficile. Abbiamo quindi deciso tra di noi di costituirci in una forma nuova per poter continuare i nostri progetti senza perdere le nostre idee, i nostri obiettivi, i principi dell'organizzazione e della lotta. Questo è stato il nostro lavoro come donne. Questa è Revolución di Sergente García. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Mi revolución es perpetua. Nada sigue igual, no hay creación perfecta. No te das cuenta, somos poca cosa. El movimiento no conoce la pausa. Todo everybody viene a bailar, todo el mundo viene a cantar. Dile a tu papá, dile a tu mamá que everything's gonna be alright. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Me fui caminando para las cuatro direcciones, acabé con mis ideas y mis ilusiones. Me limpió la vida del peso de mis errores. Ahora les doy la palma y veo los colores. Hay gente por la calle, se visten con disfraces, se quitan la careta y se le ven los dientes. Otros parecen brutos con cara de animales, pero tienen corazón y alma de reyes. Yeah, peace and love shall abide, equal rights and justice. Tell your mama, tell your papa, everything's gonna be alright. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. No, no, hijo, this morning couldn't even find tea. Me still keep the faith up in the Almighty. True light and power on the Holy Trinity. Don't try testing powers cause it infinity. We work hard, feel we daily bread. Yes, we work hard, feel we daily bread. Boom, we work hard, feel we daily bread. Every work hard, I'll take you daily bread. Love the bread, love the bread. Yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución. Missile not drop, you have to leave your place and fled. Missile not drop, you have to leave your place and fled. Torniamo a Pociutla, a 4 ore da Santiago Xanica. Questo è un paese in cui sono abituati a vedere gli stranieri, perché da qui si passa per andare alle località turistiche come Puerto Ángel, Sipolite, Puerto Escondido, dove puoi vedere il Messico delle spiagge bianche, dei ristoranti sul mare, del surf, dei gringos. Il Messico che ti vendono dalle vetrine delle agenzie viaggi e nei reportage per la televisione stile National Geographic. Noi invece siamo qui per un altro Messico. Noi siamo qui per il Messico della repressione, delle ingiustizie, delle rappresaglie, delle prigioni. Dopo qualche ora, mangiando tortillas con chile e caffè, iniziamo a vestirci. Via i vestiti neri, i cappelli e i piercing. È arrivata l'ora delle visite al carcere di Pociutla. Qui la prigione è nel centro del paese, fra i fruttivendoli e il macellaio. Il cortile interno sembra quasi una delle piazze. Bambini che giocano, bancarelle di artigianato, partite a pallone. Qui la prigione è parte della città, perché in Messico farsi arrestare è molto facile. E insieme a noi molte famiglie si trovano a dover fare questa visita. Qui si finisce dentro per molto poco. Basta essere nel posto sbagliato al momento sbagliato. Aver subito un abuso della polizia, o, ancora più facile, essere politicamente scomodo. Come è successo a Abraham Ramirez Vázquez, arrestato nel 2005 insieme ai fratelli Noel e Cuventino García Cruz, tutti e tre compagni del CODEDI. Il 15 gennaio del 2005 il CODEDI convocò un tecchio, ovvero un lavoro collettivo comunitario, per aiutare una vedova che doveva sistemare casa sua. Quel giorno, che la comunità non dimenticherà a lungo, iniziarono le sofferenze di Abraham, Noel e Cuventino. Ecco la ricostruzione di Abel, un loro compagno. Verso le 10 di mattina, mentre scaricavamo un camion di mattoni, arrivò una pattuglia di polizia. Dato che la strada è molto stretta, ci passava solo un veicolo. Gli chiesero di aspettare un paio di minuti, dato che stavano per finire, ma gli agenti non vollero sentir ragione e chiesero rinforzi a due pattuglie che si trovavano nei pressi della piazza municipale. Quando queste arrivarono, comprendemmo che avevano ricevuto l'istruzione di provocare una lite. Abraham cercò di dialogare con loro, ma gli agenti cominciarono a caricare le loro armi e uno gli piantò il fucile nello stomaco. Nel cercare di proteggersi, il compagno ricevette un proiettile nella gamba e cadde immediatamente. I compagni risposero tirando i mattoni che avevano in mano. Nella zuffa anche Cuventino e Noel vennero feriti, anche se non così gravemente. Dopo una ventina di minuti di scontri, la polizia si ritirò in direzione di Huatulco. Noi portammo Abraham, Noel e Cuventino alla clinica del paese, dove gli fu messa una flebo e gli furono prescritte delle medicine, ma Abraham aveva bisogno di cure intensive, dato che le sue ferite erano di una certa gravità. Li accompagnava Alejandro Diaz Cruz, un membro del CODEDI, ma dopo mezzo chilometro li aspettava un blocco di polizia. Senza la benché minima considerazione del suo stato di salute, gli agenti gettarono in malo modo Abraham in una macchina e presero la strada per Huatulco. Ma ci misero molte ore ad arrivare, anche perché si fermarono a cenare. Così il nostro fratello non ricevette cure mediche per 36 ore, correndo il rischio di dissanguarsi o di perdere la gamba. Anche Alejandro fu torturato. Loro l'hanno calcolata bene, per fregarci con la repressione. Carcere, denunce, rappresaglie, hanno stipendiato le canaglie, i fascisti facce da carogne, l'han tirati fuori dalle fogne. 12 dicembre a Milano, manifestazione per la Spagna, passa un corteo partigiano, coi carabinieri alle calcagna. Finito tutto, molti vanno via, altri restano lì coi pugni alzati a gridare viva l'anarchia. Guida calabresi fucilati. Abraham, Noel e Cuventino restano nel carcere di Oaxaca per circa un anno, dopodiché vengono trasferiti nel carcere di Pociutla a circa 4 ore da Xanica. Sentiamo ora dalle parole della moglie di Abraham, Graciela Cruz Garcia, le condizioni di questo carcere. Igual ahí en Pochutla él tuvo muchas amenazas de las policías. A veces no lo dejaban entrar, la comida, su ropa y todas las cosas. Quando stava al carcere di Pochutla, riceveva molte minacce da parte della polizia. Non lasciavano che gli portassi del cibo, vestiti e tante altre cose. Abraham è rimasto in questo carcere per 3 anni, durante i quali ha fatto molte denunce sulle condizioni del carcere. Per questo motivo l'hanno trasferito nel carcere di Miahuatlán. Sono già 7 mesi che sta lì, in regime di massima sicurezza. Chiaramente non può ricevere vestiti, né tantomeno visite. Anche a me e ai bambini a volte non ci fanno entrare. Però, anche se sta rinchiuso in carcere, per lui la lotta continua e non si arrende. Lui vuole lottare per il popolo, per il suo popolo, e non si arrenderà. No falla él, pues él siempre está en la lucha del pueblo, porque eso es lo que quería él, de su pueblo. Alla fine del 2009 saranno 5 anni che Abraham Noel Cuventino sono rinchiusi nelle carceri messicane con un'accusa falsa ed ingiusta. Prigionieri politici di un sistema repressivo che sembra non lasciare scampo. Ascoltiamo ancora César Luis Díaz del Codedi, nelle cui parole ritroviamo tutta la fermezza e la convinzione di una lotta che non può essere rinchiusa tra le grade di una squallida cella di prigione. Nel penal de Pochutla hay muchísimas violaciones a los derechos de los internos, ¿no? No hay medicina. Nel carcere di Pochutla ci sono moltissime violazioni ai diritti dei prigionieri e non ci sono medicine. I sanitari sono proprio sporchi, fanno schifo, non c'è igiene. È una prigione dalle condizioni pessime. Quindi i compagni fanno denunce pubbliche, cominciano a parlare, richiamano l'attenzione delle organizzazioni per la difesa dei diritti umani. Il governo nuovamente vede che i compagni parlano. Perciò 6 mesi fa trasferiscono Abraham a Miahuatlán, un carcere di massima sicurezza a Oaxaca, molto più lontano di Pochutla, con l'intento di tenerlo separato dagli altri 2 che restano nel carcere di Pochutla. A seguito di questa vicenda, il governo ha avuto la scusa per definire Xanica un covo di sovversivi, e questo soltanto perché qui esiste un'organizzazione indipendente dai partiti politici, perché Xanica ha dimostrato che solo così la lotta può andare avanti. E allora cosa fa il governo? Ci manda a reprimere. A molti altri compagni hanno fabbricato ad hoc dei precedenti penali, totalmente inventati, che il governo può utilizzare in qualsiasi momento per giustificare la loro detenzione. Abbiamo stato esigendo e vamos a seguir stando exigiendo hasta lograr la libertad de estos compañeros Abraham y Juventino García Cruz, ¿no? Quindi noi esigiamo la loro liberazione e continueremo ad esigerla fino a che non la otterremo. Perché dico esigiamo? Perché sappiamo che loro sono innocenti e che non hanno nulla a che vedere con le accuse che stanno affrontando al processo. Inoltre siamo anche coscienti che dopo la loro liberazione questi compagni si uniranno di nuovo a noi e continueranno a lottare, perché questo è il nostro futuro. Continueremo a lottare finché non rispetteranno i nostri diritti, sia come individui che come comunità, finché non rispetteranno la nostra autonomia. Como comunidad, que se nos respete nuestra autonomía. La situazione dentro le carceri messicane è allarmante. In tutto lo Stato del Messico ce ne sono 257. Per 217.000 detenuti, cioè un detenuto ogni 506 abitanti. Si pensi che solo a Città del Messico si concentra il 50% della popolazione carceraria totale. Le inadeguate infrastrutture messicane ospitano migliaia di persone, il doppio, il triplo, fino a 4-5 volte la capienza massima. La noncuranza delle istituzioni provoca scarsa igiene, niente cibo, e continui conflitti interni che spesso sfociano in vere e proprie rivolte. Lo Stato passa ad ogni prigioniero circa 250 pesos al mese, più o meno 15 euro, con cui deve comprarsi il cibo e contare sulla solidarietà che per fortuna fra i detenuti non manca. Uomini e donne con accuse spesso non provate si ritrovano rinchiusi e rinchiuse in celle che degradano le loro esistenze e che troppe volte diventano le loro tombe. Questo è il Messico che vi vogliamo raccontare. E ora ascoltiamo America Latina Libre degli Scapè. Hermano peruano, hermano colombiano, hermano cubano, que con tu sangre hiciste la revolución. Hermano boliviano, derramó el dictador. Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador, yo te quiero en Guatemala, yo te quiero en Mogollón. Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador, yo te quiero en Guatemala, yo te quiero en Mogollón. Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador, yo te quiero en Guatemala, yo te quiero en Mogollón. Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador, yo te quiero en Guatemala, yo te quiero en Mogollón. Cristobal, uno dei quattro figli di Abraham, ci ha recitato delle poesie che il padre ha scritto in carcere. La prima che vi proponiamo, abbiamo deciso di lasciarla non tradotta e di farvela ascoltare in zapoteco. Non c'è nulla che possa spiegare meglio la cultura e la profonda spiritualità del popolo zapoteco, come la musicalità della loro lingua. Una lingua che da secoli il colonialismo ha cercato di cancellare e che, per fortuna, oggi possiamo ascoltare rivivendone i suoni antichi di secoli. La storia di una famiglia molto povera, il cui figlio, che subisce le continue percosse del padre alcolizzato, si ribella alla situazione e se ne va di casa. Ma nel suo viaggio, vedendo le bellezze che la vita può offrire, decide di tornare dalla sua famiglia e di cercare di convincere il padre che la vita vale la pena di essere vissuta. Ireske orjalon onilu kin nashlewitz nashazamen win sulokne kin meknyan ze zakhi jenme rnimen kilekin bain semekin bain nyanna mendetna snemen tiduli kurnina mendetna snemen okshena titkurkuit nanam ormata topnis kunzaka shuita hotia koina non gut meliatsa Zuz ngota yu, zuz ngota wain, zuz nzal kundawa, zuz nzaltna. Nota wit, ti yab kotz, ti tobles, na le kunz ka uklawa. Na le shoda njena, dat kunyan, dat kunles. Ti sti wit, zina yu, nina fotke ke kloshu yuza na repa. Tis len zivire kurzakane, shtolle, tlatu na itzliure, norka. Zenishnaza, shomat ket lo kis laika, de ta wain, de ta kiao, de ta kiet, nena men kint lo, men kint ni, men kint ya. Norka unena nachse urobto kurzaka, norka miubrena lica, norepa lo shiza, lekin bain. Questa puntata è stata realizzata da Fazio, Max, Prox. Potete scaricare l'MP3 della puntata dai siti www.reporter.endivia.net, www.autistici.org/nodosolidale. Se oye la lluvia en los techos de cartón, qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando su paso por el peso de sufrir. Mira que es mucho el sufrir, mira que pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada, abajo está la ciudad. Que se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer. Es un mundo sin mañana. Qué triste se oye la lluvia. propia. En los techos de cartón, niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación para que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué lejos pasa la esperanza de las casas de cartón.